10, ancora qua, Bunker Studio, Mad Men. Dopo sono un fantasma un'altra volta. Dopo tre giorni questa merda è risorta. Barone al beat, Mad Men alle rime, aspettando la svolta fino alla fine. Io so che il dolore non quantifica tutte le sofferenze. Ho imparato che fortifica solo dalle esperienze. Vivendo da eremita e non sotto le dipendenze di un dio che mastica vita per poi sputare sentenze. E gente sempre più delusa non si arresa, ma accusa la merda sempre più diffusa in una chiesa collusa, mentre il porco la giustizia l'ha già presa e ne abusa. E dopo l'ennesima sevizia è a terra stesa e confusa. Ma io non spreco il mio fiato e non rimo, sputo e sentenzio, perché non credo nel fato ed esprimo tutto il dissenso. Ma dopo penso che di lacrime ne ho già versate a fiumi, e che se possedeste le anime sarebbero in frantumi. Come l'odio ed il disprezzo che leggevo nel tuo sguardo, come tutte le mie ex che ricordano un bastardo. Guardo dallo stress, non sono tra chi aspetta un'etichetta o la fiaschetta stretta come un San Bernardo. Ho già peccato e spero che nessuno mi abbia visto. Temo la polizia, gli infami, non il Padre nostro. E mi dispiace fra, ma io non sono come Cristo. Io se ritorno dopo tre giorni ho già perso il posto. Gonna burn the hell for all the things I did. Gonna burn the hell for all the things I did. Gonna burn the hell for all the things I did. Ogni giorno un sacrificio, nascondere quel dipinto. E non è di buon auspicio sentirsi sempre più vinto. Ma io non beneficio del vostro bene finto. La mia stirpe un seme estinto e sono solo un derelitto. È come sopravvivere ad un incidente orribile, restando sempre in bilico tra il cinico e il terribile. Ed in fondo la mia vita è molto simile, perché sotto tortura la fortuna è morire il prima possibile. Vivo come un fakiro ed in giro chi si congratula. E sono un altro vampiro che sogna di essere Dracula. Ma senza mai rispetto mi aspetto solo il rigetto, perché ho sangue maledetto, infetto che non si coagula. E intanto lo condisco svuotando litri alcolici fin quando mi esaurisco, sfiorando i minimi storici. E poi vi mando a fanculo insieme ai vostri codici. E sto disco esce il 21 dicembre 2012. Ho già peccato e spero che tutti mi abbiano visto. Ho trasformato in versi i miei demoni più ossessivi. E mi dispiace fra, ma io non sono come Cristo. Io se ritorno dopo tre giorni vi sprano vivi. Gonna burn the hell for all the things I did. Gonna burn the hell for all the things I did. Gonna burn the hell for all the things I did. Gonna burn the hell for all the gonna burn the hell for all the gonna burn the hell for all the things I did. Gonna burn the hell for all the things I did. Gonna burn the hell for all the things I did.